Pronto, ciao Alessandra. Pronto, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sì, siamo qui sotto a Piazza dei Tribuni e c'è anche una ventilata ipotesi ora di cominciare a spostarsi e fare una megafonata, un corteo nel mercato che nonostante la pioggia è comunque molto popolato e può essere un'occasione per gridare la nostra indignazione al quartiere che di sabato mattina insomma è per le strade. Il presidio comincia a essere sostanzioso nonostante la pioggia e di questo diciamo siamo molto contente, nonostante il nervosismo e l'indignazione sia molto alto, e non nascondo che sono anche molto agitata a fare la corrispondenza adesso. Io sì, sono dell'associazione Dalia, che è questo sportello contro la violenza sulle donne attivo al Pigneto da oramai a luglio e siamo qui in diciamo numerose proprio perché ci troviamo di fronte all'ennesimo schifo, l'ennesimo segno di una cultura maschilista e purtroppo anche coperta sia dalla stampa che da tutti. Vorremmo avvicinarci anche alla caserma dei carabinieri qui al Quadraro, dove si è consumato questo stupro, questa violenza contro una giovane donna una giovane donna che era stata rinchiusa, sicuramente ne avete parlato stamattina, per un furto di due magliette in un negozio. Ci chiediamo anche perché sia stata rinchiusa in una caserma, in una cella di sicurezza per un furto di due magliette. In una cella di sicurezza, sì, ci chiediamo questo. Siamo veramente sdegnate di quello che è uscito dai giornali, si parla di donna che ha provocato e per questo il debole uomo l'ha violentato, una donna fuori di testa, una donna che non ha denunciato nel processo per direttissima avvenuto il giorno dopo, mi sembra, al furto, come se fosse normale tra carceriere e carcerato che si instaurino dei rapporti, no? In cui il carcerato denuncia il carceriere di violenza e poi torna nella stessa carcere e poi cosa succede? Quello che è successo a Cucchi un anno e mezzo fa, come se non sapessimo che le forze dell'ordine, le divise sono esseri in carne ed ossa, sono uomini. Ora mi dispiace per tutto, insomma, che parlo da donna a uomini, ma che fondamentalmente la violenza sulle donne è agita da uomini. Certamente. Siano essi presidenti del consiglio, siano essi poliziotti o carabinieri, siano essi proletari, anche siano proletari, essi certo, immigrati o quant'altro, nonostante certo vengano caratterizzati di volta in volta dalla stampa e dalle voci comuni come appunto immigrati, come se fosse più grave o come se fosse costante che appunto un diverso agisca violenza. In realtà è semplicemente un fattore culturale di cui siamo investiti tutti e tutte, perché anche noi donne fondamentalmente viviamo in una cultura e cresciamo in una cultura che è sbilanciata e squilibrata. Certo. Sotto questo punto senti, di vista. Senti Alessandra, poco fa ci ha chiamato un'ascoltatrice, noi non sappiamo se è vero perché non siamo sintonizzati sulle radio di Stato, che stava in giro e ha sentito una radio, credo del GR1 o GR2, quindi una radio di Stato, che diceva che sembrava che la donna stuprata stesse ritrattando tutto. No, io questa cosa francamente me l'aspettavo, perché appunto, come dicevi tu, conoscendo le dinamiche interne al carcere, laddove appunto il rapporto carceriere carcerato è sempre a favore qualunque cosa succede. Poi voglio dire che questa cosa va messa con attenzione, credo che nessuno creda poi eventualmente, quindi manteniamo ferma a maggior ragione noi siamo dalla parte di chi subisce non solo lo stupro in prima fase, adesso subirà la pressione dei media, della società per bene ed anche delle forze dell'ordine che cercheranno di farla ritrattare. Per noi però rimane sempre il punto forte, senza fare un passo indietro, credo. Questo è senza discussione, cioè la donna che non ha denunciato, ora a prescindere dal fatto che ora si stia vociferando, che stia ritrattando tutto, ma questo rientra nel gioco delle parti di questo generale. cioè la donna non ha denunciato neanche il giorno dopo nel processo per direttissima questo fatto, ma immagino che nessuna di noi si sarebbe sentita spalleggiata all'interno di un posto di sicurezza, che è la di sicurezza, o comunque durante un processo ad accusare il proprio carceriere, tantomeno, tant'è vero che lei ha denunciato a distanza di tempo, uscita in libertà, sostenuta da una persona che l'ha sostenuta e l'ha consigliata appunto di fare questa denuncia, perché non è neanche scontato che una donna abbia la forza e il coraggio di denunciare la violenza subita. Moltissime delle violenze che vengono denunciate restano nel silenzio. In questo caso la smentita, la ritrattazione non rientra altro che nel gioco di potere che si è instaurato. Vorrei dire un'ultima cosa: noi come centro antiviolenza abbiamo denunciato più di una volta il fatto che soprattutto negli ultimi 10 giorni, quando sono uscite le voci, le denunce di 3 stupri a Roma con questo quarto nella caserma dei carabinieri del Quadraro, c'è stata una risposta istituzionale, tra virgolette, dell'assessore al Comune di Roma che indignato diceva: sì, tolleranza zero, aumenteremo le forze di sicurezza nelle strade, trattando problemi di stupro e di violenza come questioni di ordine pubblico. E ora come ci relazioniamo a questo problema di ordine pubblico? E poi aggiungo ancora che l'Italia subisce delle pressioni dalla Comunità Europea, dall'ONU, ora, per quanto ci possa interessare chi siano i soggetti che fanno pressione, su un investimento maggiore rispetto alla prevenzione, rispetto alla risposta alla violenza sulle donne. La risposta del governo italiano è tagliare i fondi di supporto a qualsiasi struttura che, a partire dai centri antiviolenza, che gestisce la violenza sulle donne. Ha chiuso un centro l'anno scorso e sono in chiusura dei centri adesso, e ne hanno chiusi in passato. Ora scusate, mi sto distraendo perché il corteo si sta muovendo. Perché si sta dirigendo sotto la caserma, c'è chi sta arrivando dalla Tuscolana e quindi... Aspettate che passo a chi è informato di me perché mi sono spostata. Va bene, dai. C'è chi si sta dirigendo sotto la caserma dove è avvenuto lo stupro e c'è chi sta arrivando dalla Tuscolana, stiamo aspettando appunto queste donne che poco fa hanno occupato la via Tuscolana. Ok, quindi vi state... ci aggiorniamo a tra poco, penso. D'accordo, a tra poco, buona manifestazione.